La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti a un nuovo appuntamento con la storia e la memoria. Questa sera l'approfondimento di Dino Pesole è dedicato alla figura del matematico napoletano Renato Cacciopoli, a 50 anni dalla sua tragica morte per suicidio. Ospite ai nostri microfoni il professor Carlo Sbordone, presidente dell'Accademia Pontaiana di Napoli. Nella seconda parte, due radiodocumentari in collaborazione con History Channel. La storia del comunismo in Cecoslovacchia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale alla caduta del muro, e, dopo la viabilità, la ricostruzione del processo di Norimberga ai gerarchi nazisti, primo fra tutti Hermann Göring. Ma la parola adesso va a Dino Pesole. È stato uno dei più geniali cultori della matematica che il nostro paese potesse vantare, l'uomo più cosmopolita, o meglio più europeo, che si potesse incontrare, e al tempo stesso un napoletano inseparabile da questa città. Con queste parole il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha rievocato la scorsa settimana a Napoli la figura di Renato Cacciopoli, a 50 anni dalla sua tragica morte per suicidio. Figura straordinaria e di grande spessore quella di Renato Cacciopoli, scienziato e matematico, ma anche intellettuale e uomo politico. Nipote di Mikhail Bakunin, Renato Cacciopoli si iscrive inizialmente a ingegneria, per poi passare a matematica. Nel 1925 si laurea all'Università di Napoli sotto la guida di Ernesto Pascal e Mario Picone. Nello stesso anno diviene assistente di Picone. Nel 1928 ottiene la libera docenza. La sua prima pubblicazione è del 1926. Cacciopoli lavora ai principi di una teoria della misura delle superfici piane e curve e più generalmente delle varietà a due o più dimensioni immerse in uno spazio lineare. Poi si dedica allo studio dell'analisi funzionale. Nel 1938 Hitler è in visita a Napoli con Mussolini. Cacciopoli, che ha già mostrato la sua opposizione al fascismo con tagliente sarcasmo, riesce a convincere un'orchestrina di un ristorante napoletano ad eseguire la Marsigliese. Viene subito arrestato. Evita il giudizio del tribunale speciale grazie all'intervento della zia Maria Bakunin, docente di chimica all'Università di Napoli, che convince la polizia a dichiararlo pazzo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, Renato Cacciopoli riprende l'attività scientifica. È membro corrispondente dell'Accademia dei Lincei e membro nazionale nel 1958, poi socio dell'Accademia di Scienze Fisiche e Matematiche di Napoli e dell'Accademia Pontaiana. Sono gli anni dell'adesione al Partito Comunista, di cui però non prende la tessera per una naturale indipendenza e forse per uno scetticismo di fondo. In effetti Cacciopoli non condivide la politica del Partito Comunista su alcune questioni chiave. Resta, ad esempio, molto turbato dall'invasione dell'Ungheria nel 1956, nonché dalla dottrina scientifica ufficiale sovietica. Si impegna tuttavia a fondo in politica, spesso tenendo comizi e intervenendo a convegni e manifestazioni indetti dal partito. Partecipa anche all'organizzazione del Napoletano Circolo del Cinema, uno dei primi cineforum del dopoguerra italiano. Poi il tragico epilogo, probabilmente per la delusione delle sue aspirazioni politiche, ma anche per vicende personali come l'abbandono della moglie Sara Mancuso, si uccide nella sua casa di Palazzo Cellammare l'8 maggio 1959 con un colpo di pistola alla nuca. Aveva 55 anni. Alla figura di Renato Cacciopoli è dedicato anche un film di Mario Martone del 1992, si intitola Morte di un matematico napoletano. È andata male la roulette russa. È andata bene. Beh, certo, se voleva fallire gli è andata bene. Io userei una pistola, punterei alla nuca, che è più vulnerabile. Metterei un cuscino sotto la testa per raccogliere il sangue, poi sarebbe più comodo, quindi sparerei. Ma il comico non era superiore al tragico? Mi hai disarmato. Abbiamo in linea il professor Carlo Sbordone, docente di analisi matematica all'Università Federico II di Napoli, nonché presidente dell'Accademia Pontaiana, sempre di Napoli. Professore, grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito. Prego. Renato Caccioppoli, scienziato, matematico, ma anche intellettuale, uomo politico. Quindi, professore, una figura veramente poliedrica, potremmo dire. Certamente. Diciamo che la sua caratteristica principale era quella di essere un matematico. Sin da ragazzino aveva dimostrato delle doti straordinarie di comprensione di questioni complicate. Il suo professore all'università rimaneva estasiato dinanzi alla capacità di risolvere i problemi che aveva Caccioppoli, e andò in cattedra a 27 anni con dei risultati, diciamo, importanti in vari campi della matematica, non soltanto dell'analisi matematica, quindi un aspetto un po' universale. Per dare un'idea di una delle questioni di cui si è occupato, era quella di determinare le proprietà, la lunghezza, per esempio, di curve molto irregolari. Sì. Mentre è facile parlare di lunghezza di un segmento o del perimetro di un triangolo o anche di lunghezza della circonferenza, quando si ha a che fare con delle curve molto più complicate come quelle che via via si presentano nell'esperienza odierna, per esempio le curve che rappresentano la costa della Gran Bretagna, ecco, se noi pensiamo a questo esempio e guardiamo su due o tre enciclopedie diverse, troviamo dei numeri completamente diversi. Qualcuno dice 7.000 chilometri, qualcuno 8.000 chilometri, qualcuno 9.000 chilometri. Come si può sbagliare di tanto? E lui fece capire che non aveva tanto senso domandarsi qual era la lunghezza della curva senza specificare l'unità di misura alla quale ci si fa riferimento, e quindi utilizzando un regolo molto corto si riescono a vedere delle frastagliature che altrimenti con un regolo lungo non si vedono, e quindi la curva al variare del regolo cambia. E di quanto cambia è la cosa importante. Lui introdusse il concetto di dimensione frazionaria, e mi fermo qui perché penso di avere già dedicato troppo tempo a questo aspetto. Ecco, dal punto di vista invece dell'apporto che Caccioppoli diede alla Napoli degli anni 50, quindi diciamo dalla sua figura di intellettuale uomo politico, come potremmo sintetizzare per i nostri ascoltatori questo apporto? Egli era molto noto nella città, sin dagli anni 40, sin da quando in occasione della visita di Hitler a Napoli entrò in una trattoria e chiese alla banda di suonare la Marsigliese, ecco, quindi a quel punto lo volevano mettere in prigione, poi riuscirono a farlo spostare in un manicomio, insomma si è stato richiuso per un mese, dove faceva moltissima matematica naturalmente, ecco, e questo era un episodio che lo ha fatto conoscere parecchio a Napoli. E poi lui era direttore del Circolo del Cinema, quindi si intratteneva il pubblico dopo o prima lo spettacolo con delle sue lucubrazioni geniali che affascinavano i presenti. E poi aveva un impegno politico, sì. Anche se non iscritto al Partito Comunista, lui era un uomo di sinistra, amava stare nella folla con la gente e capirne i problemi, amava stare con i deboli, con gli ultimi. Così come a scuola, all'università invece lui era esigente, era molto esigente con i suoi studenti, perché voleva anche temprarli non soltanto al superamento dell'esame o all'apprendimento della disciplina della matematica, l'analisi matematica, ma temprarli, insegnargli a prendere sul serio gli impegni, è vero? Professore, un'ultima cosa, la fine tragica di Caccioppoli, immagino sorprese tutti, anche se poi le vicende personali del grande matematico probabilmente furono determinanti in questa scelta tragica. Ci saranno state diverse componenti, sicuramente è difficile entrare nella testa specialmente di un uomo così grande, e però certamente il diminuire della sua capacità di attirare i giovani, la partenza di alcuni dei suoi allievi che avevano vinto la cattedra e si erano trasferiti in altre città, il fatto che in Ungheria nel 1956 c'erano stati quegli episodi, morta la madre nello stesso anno 1956, qualche vicenda personale su cui non mi intrattengo, ecco, un confluire di vicende lo indussero a fare qualcosa che per la verità non sorprese coloro che lo conoscevano, perché lui ne aveva già parlato, aveva dato idea che avrebbe fatto questa scelta finale. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Emanuela Sicuro. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo.